Però se non mi porti quella radio lì, cosa ne so? Li guardi o fai la finta? Così ho capito, boh. Ah, ma i video li guardi o fai la finta? Tu mi hai detto, c'erano queste lamelle spostate, ma perché si sono spostate? Ma guarda l'altro video anche. Ah, me ne hai mandato un altro, no, perché mi stavo lavando, là. Stavolta ha dovuto andare con la roba nuova, pensavo di fare solo quei buchi e basta, poi ho fatto quel buco sulla testa, mi sono bruttato. Meglio per te. Infatti non gli volevo chiedere 15 e 20 euro, ma comunque gli ho chiesto 15 euro, sono andato bene lo stesso. Ma gli hai detto che farà questo subito? No, comunque penso che quel muro te lo fa fare perché quella macchia c'è ancora, c'è quella macchia. Quel... su zappolo che va tutto è ancora così. Si è detto che se lo pitturava lì, io sono in gioco. Comunque è deciso, altro che lo vuole fare. Infatti io gli avevo fatto presente quel discorso del soffitto. Capito? Va bene, ne parliamo al telefono. Aspetta che vado a vedere chi è. Ehi, Maglio. Luca Maglio. Attento, Maglio. Ciao, Mari. Ciao, Mari. Oh. A mittenti. Cosa c'è? Alzati il volume. Abbassi bocca. Mi metto la mano vicino e sento più bene, vai. E te lo sento sopra a sinistra, a destra non sento niente. Ui, per carità. Comunque è a tutto il volume, vai. Allora, nella destra mettete una cuffia. Ui, ui. Gillu. Tanta mezzo butto che vede. Oh, si mette a panda, ragazzi, ma poi c'è una cosa che ci conosce, si mette a panda completamente, sia una e l'altra. Allora, sulla sinistra Maria Ghiri, prima che dia si però poca roba. Allora, la destra non intende nulla. Sta panda completamente. Allora invece con la sinistra poco, infatti mi aggiungo la mano e sembra che mettendomi la mano vicino sembra che sia più forte l'udito, capito? Certo devi fare come ti ho detto io, vedrai. Che è? Non ci riesco, da solo ci riesco. Non ci riesco, ma intanto devo andare là, lunedì devo andare là. Ormai c'è l'appuntamento lunedì, devo andare là. Così che devo mettermi la goccia perché anche prima andavo ogni 3-4 anni andavo e mi facevo il lavaggio bene, capito? E adesso sono già 3 anni, sì. E si mette a parte completamente. Ma tra l'altro mettere le cucce prima, capito? Così che per 10 giorni. Ma mi sembra che invece prima qualche poco sentivo, adesso non sento proprio niente a quell'orecchio, per carità. Nulla, è chiusa completamente. E non l'ho toccata, non l'ho toccata per niente, con nessuna cosa, capito? E allora devi andare alla tua voce di città mercato, vedrai. Bisogna trovare uno sgonfiatore però, quello già aspira bene. Uno sgonfiatore bisogna trovare, di quelli potenti. Allora già ne assorbe la tutta la questione, capito? Per carità. No, sa perché? Perché sulla sinistra, sulla destra, c'ho un passaggio stretto io. È troppo stretto il passaggio, ecco per quello che certe volte nemmeno le gocce entrano dentro, capito? Però questa volta sono entrato, ho visto qualche poco è uscita da quando sto mettendo queste gocce, capito? Però ancora chiusa, tappata direttamente, verubapu. E domani ti sento la bicicletta del compressore. E c'è un sobobri, come di chiù, cosa ti fa? Se no, se c'è il buco stretto lì, mi chiede cos'è il zaino. E mi appena un trapano sulla buccia a gruccia e a fare un lungo. E io da ragione, per carità. Tutti le malanda che si andare sono scendere. Ma fai come ti ho detto io, vedrai. Già ci riesci anche da solo, ma... Adesso non lo posso toccare nulla, devo agguantare veramente a lui, cosa che mi dica. Beh, brutto è, quando tu lo senti, ce l'hai chiuso, brutto è. Non so come sto facendo ad ascoltarti con la sinistra, perché io ho avuto l'otite che sentivo sempre poco, capito? Però adesso mi metto la mano proprio quasi un po' chiusa la mano, no, sull'orecchio ti sento, se io raccolgo non ti sento. Sento appena il fracasso e basta, però mettendomi la mano ti sento, capito? E tu usi il bicchiere come facevano prima. Bicchiere, il filo e un altro bicchiere lo appoggia alla colonnina del baracchino. Vai, sei caduca. Per carità, ma me l'hanno detto che, invece dall'altra parte, siccome ho avuto l'otite lì, il passaggio è stato, c'era cicatrizzato, magari il buco rimane più largo, capito? Mentre sulla sinistra, destra, lì è troppo stretto. Se tu stai dicendo, certe volte non scende nemmeno le gocce, capito? Invece ho visto che adesso è entrato e forse per quello che mi ha chiuso tutto completamente, forse sta ammorbidendo tutta la questione, perché c'è qualche tappo proprio che rimane duro e a scioglierlo ritarda, capito? Posso usare l'aspirapolvere della stufa. alla ghecchia del bollettino che sta a vista della zuccia. A vedere se te ne udira, c'era un film appunto, a me avevo visto un film che chi appunto lo trattava i chimi, era cosa si rabbuniva l'aspirapolvere. ho visto che uno vabbè e vari anni fa ha fatto un buco su un melone, c'era buia in un melone e lavorava lì, per carità, a razza mentre da niente, che poi successo. E dopo si mangiava il melone, burro. E buco, non penso che si lo mangiava. Vabbè, magari sarà roba buona, non so, bisogna far assaggiare se è buono o no. Ah, boh. Cucciglia, carità. Mi viene niente strano a me. Specialmente e si liberasse, liberasse il patio scatta, per carità, a inghiottire tutto, pucci, pucci, mamma mia ragazzi, vi leggete schifoso là? Ma schifosa veramente ce n'è davvero, boh, io non so come facciano, secondo me è gente malata. È vero, ma sana, cioè, persone sane non sono a fare quello lì, cioè, e poi, boh, va a cercare la natura come, che nemmeno manicomio si è fatto sentire, di solito ogni tanto si faceva sentire la sera, anche prima di quest'ora, aspetta, lo chiamiamo Luca! No, non c'è, no, che devo andare all'ospedale, mi sembra, lo so. Grazie, allora se l'avete ribiati, oh, mi ha mandato una foto che sono in discoteca, boh, in qualche sala da ballo, e sono tutti ballando, c'è anche la 50, e deve essere, no, che il latte dolce, quella sala del latte dolce deve essere, mi sembra lì, però lui no, non c'è lui, c'è... E lei c'è. Ma cos'ore si è sentito? Mettore. Nessuno, dai. Nemmeno Tore. Tore chiama su 23. Però lui quando accende, accende tutte e due, le accende, capito? Per cui. Vediamo un po'. Tore! Aspetta, faccio una telefonata, Gianmarino intanto. Dai, è acceso qua.